in primo piano. Buongiorno e buon 8 marzo, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Cominciamo dal Corriere della Sera che ha una bellissima fotonotizia di Obama con in braccio un bambino. Obama fotografato ieri a Selma in Alabama per commemorare i 50 anni da una storica marcia che voleva difendere i diritti civili e in qualche modo dare un colpo decisivo al razzismo, e come sappiamo invece il razzismo in America e non solo naturalmente è vivo e vegeto. Proprio ieri, nel giorno di questa grande manifestazione in ricordo della marcia di Selma, è stato ucciso un nero, un giovane nero disarmato dalla polizia in Wisconsin, quindi grandi tensioni. Ma la foto appunto è molto bella, c'è la piccola mano di questo bambino nero che dà il 5 alla grande mano di Obama. Obama ha detto: la marcia non è finita. Il titolo un po' principale però del Corriere della Sera è dedicato a un'intervista che il Corriere della Sera è l'unico ad aver ottenuto a Yanis Varoufakis, che ieri era a Milano all'Aspen Institute. Yanis Varoufakis è il ministro delle finanze di Tsipras, il premier greco, e Varoufakis in questa intervista a Danilo Taino dice: se Bruxelles non dice di sì, dice di sì a un altro prestito, sapete che la Grecia è in assoluta crisi di liquidità, siamo pronti a un referendum sull'euro. Dice anche tante altre cose, ma Varoufakis di cose nelle ultime settimane ne ha dette tante, e poi vedremo quando e se si arriverà finalmente a questo accordo tra la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea e a latere anche il Fondo Monetario Internazionale, cioè l'ex Troika, e appunto il governo greco. La prima pagina della Repubblica, come dicevamo, ha la notizia, come dicevamo, nel senso che ieri è stato il giorno di questa marcia commemorativa dei fatti di Selma, e quindi la Repubblica apre su questo, puntando però, come vi dicevo, sul fatto che proprio ieri in Wisconsin un agente della polizia ha sparato a un 19enne nero disarmato, e quindi il titolo: la polizia uccide un nero nel giorno di Selma. E Obama, appunto, questa frase di Obama: non è finita la lotta al razzismo. La foto in questo caso è di Obama in testa al corteo che ricorda la marcia di Selma del 1965, ed è vicino a Amelia Boynton, che oggi è una signora anziana in carrozzella, ma che all'epoca dei fatti partecipò alla marcia e fu una dei tantissimi attivisti picchiati a sangue dalla polizia che tentava di sopprimere questa marcia. La prima pagina del Sole 24 Ore è dedicata al quantitative easing, il QE, perché domani, dopo essere stato annunciato, parte questo piano di liquidità della BCE, e l'Eurogruppo tra l'altro si riunisce, quindi i ministri delle finanze dell'area euro, quindi per intenderci non c'è per esempio il ministro delle finanze britannico, che sapete non è nell'area euro, sulle riforme della Grecia. Moltissimi gli approfondimenti, in particolare vi segnalo l'intervento, l'analisi di Paul Krugman, inflazione culto da combattere. Paul Krugman è un premio Nobel, scrive anche sul New York Times, noi del Sole 24 Ore abbiamo in syndication i suoi articoli, e torna appunto su uno dei temi a lui più caro, quello dell'inflazione, che sapete si fa sempre di tutto per combattere, ma secondo Krugman, che ha sempre, non sempre ma in molti casi, tesi un po' controcorrente, appunto è forse tutto sommato questa cosa dell'inflazione da combattere o da combattere a tutti i costi, oppure in realtà da ignorare, andrebbe un pochino tutta ripensata. Moltissimi anche gli approfondimenti sulla festa della donna, ne vedremo alcuni anche poi sul domenicale. C'è all'interno del dorso principale del Sole 24 Ore un intervento di Elisabetta Rasì, una giornata da prendere sul serio. La foto è quella di ieri del presidente Mattarella, che ha ricevuto molte delle donne che sono protagoniste di progetti di solidarietà, e poi anche come ogni domenica sul Sole 24 Ore, sulla prima pagina del Sole 24 Ore, la lettera al risparmiatore del nostro collega di finanza Vittorio Carlini, che ogni settimana prende in considerazione, esamina, fa la radiografia proprio a un titolo quotato per appunto scrivere la sua lettera ai risparmiatori, spiegare perché o perché no investire in un certo titolo. Oggi il titolo scelto è Recordati, una delle aziende farmaceutiche più importanti italiane. La sintesi che fa Vittorio Carlini, poi l'approfondimento lo trovate a pagina 16, è: Ricordati allarga il perimetro nel business delle malattie rare. Per quanto riguarda tutta la questione delle riforme elettorali, vi segnalo due articoli, uno di Roberto Dalimonte, che analizza un pochino come si stanno muovendo i voti in questo momento, e poi un articolo di Luca Ricolfi. I due editoriali vanno sotto il titolo, vengono raggruppati sotto il titolo, e poi li trovate a pagina 19: l'Italicum Grillo Salvini e il cavallo di Troia di Pluto. Il Messaggero ha un titolo ancora diverso, anche se, come nel caso del Corriere della Sera e della Repubblica, la fotonotizia è dedicata a Obama, che ha ricordato la marcia di Selma del 1965. Il titolo principale però è dedicato a una possibile, secondo il Messaggero, secondo quanto risulta al Messaggero, uno stop dell'aumento dell'IVA, visti gli altri dati, indicatori economici positivi. In primis lo spread, che sapete è sceso sotto i 100 punti, abbiamo visto spread, cioè differenziale tra il rendimento dei nostri titoli di Stato e i titoli di Stato tedeschi, salire sopra i 500 punti negli anni scorsi. Ora avere questo spread sotto 100 significa risparmiare tantissimi soldi sugli interessi, tanto per dire la cosa più importante, sugli interessi sul nostro debito di Stato. E allora, scrive il Messaggero, spread in calo, con i risparmi il governo punta a evitare l'imposta al 24, perché sapete che c'era stata questa ipotesi di alzare ulteriormente l'IVA, che già è a livelli record in Italia, dal 22 al 24%. Renzi ha commentato che questo crollo dello spread è la fine di un incubo. C'è però la grande questione della delega fiscale. Sapete che persino nella intervista, direi, non so come definirla, comunque l'intervista che il TG1 ieri ha fatto a Renzi, che era più veramente un grande spot, perché non c'era alcun contraddittorio, erano delle domande a cui il Premier ha risposto, come forse giustamente dal suo punto di vista, parlando solo dei successi. Però una delle cose che in realtà è sospesa è la riforma fiscale, e sappiamo quanto sia importante. Quindi il Messaggero ce lo ricorda: delega fiscale ancora in stallo. E per quanto riguarda il Jobs Act, sono stati approvati i decreti attuativi, e quindi parte il contratto per i neoassunti. Addio definitivo, pare, al famigerato articolo 18. La Stampa in questo caso ha un titolo ancora diverso. Si parte un po' dall'analisi dei dati di Istat sulla crisi, ma il titolo prende spunto dall'intervista che la Stampa ha fatto al sottosegretario al governo Delrio, che punta l'attenzione sulla questione sud, sulla mai risolta questione meridionale, cioè sul fatto che il nostro sia di fatto, guardando anche i dati economici, un paese spaccato in due. E allora Delrio dice: la scommessa del governo, 9 miliardi per rilanciare il sud. E poi naturalmente si parla anche di Jobs Act, che viene definito una rivoluzione. In prima pagina richiamo un bellissimo articolo di Francesca Paci, che poi trovate a pagina 17, dove l'8 marzo le donne non festeggiano. Dall'India all'Egitto alla Turchia, in molti paesi aumentano abusi, violenze e ingiustizie. Oddio, poi a essere concreti fino in fondo, anche in Italia aumentano, abbiamo visto le violenze domestiche, calano leggermente gli omicidi, ma aumentano le violenze, quindi anche da noi le notizie non sono buone, però certo ci sono paesi dove la situazione è assai peggiore. E poi un articolo, vi segnalo, di Enzo Bianchi, il priore di Bose, che ricorda questo anniversario, che peraltro ha ricordato anche Papa Francesco ieri. Sono in questi giorni, si festeggiavano i 50 anni della messa in italiano. Infatti la prima messa interamente in italiano fu pronunciata da Paolo VI all'Angelus il 7 marzo del 1965. L'ultima segnalazione dalla Stampa, prima di lasciarci un attimo per le notizie sul meteo, è un articolo di Paolo Mastrolilli da New York, perché a Manhattan alcune scuole hanno deciso di abolire i compiti a casa. È una questione che ciclicamente ritorna, specie magari per i compiti che si danno durante le vacanze, che sono veramente tanti, non più invece che magari quelli di giorno in giorno. E allora poi sono stati interpellati dalla Stampa due studiosi, pareri a confronto: c'è chi dice che è un errore perché i compiti fanno crescere, c'è chi invece dice che è giusto perché i deboli sono penalizzati. In primo piano. Buongiorno, ancora buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e vi segnalo in particolare quella di Avvenire, perché è l'unico quotidiano che decide di aprire su questa alleanza che è stata annunciata ieri tra l'ISIS e Boko Haram. Il titolo: terrorismo globale, cristiani nel mirino. L'ISIS colpisce i villaggi e rada al suolo monumenti anche a Hatra, quindi continua questa opera di distruzione da parte dell'ISIS genesis delle bellezze della storia architettonica e culturale dell'Iraq, e poi ci sono state altre stragi di Boko Haram in Nigeria, quindi, e appunto questo gruppo islamico fondamentalista nigeriano ha annunciato di volersi alleare con l'ISIS. A proposito di 8 marzo, invece, la fotonotizia, l'Avvenire scrive: dignità e rispetto, il vero 8 marzo, festa della donna oltre i riti, e ci sono poi tante storie raccontate all'interno per spiegare che cosa si può fare per almeno aspirare a una vera parità, a una vera pari dignità tra donne e uomini. Il Fatto Quotidiano ha un'apertura ancora diversa, come spesso capita, un po' una notizia di quelle da mani sul volante, perché è un'inchiesta su Banca Italia, su quella che il Fatto Quotidiano definisce l'affittopoli di Banca Italia. La nostra banca centrale ha 1,5 miliardi di immobili che rendono solo il 2% all'anno, poco più di un bot. Perché? Perché li affitta a prezzi bassi a dirigenti e ai soliti inquilini eccellenti, dalla presidente Rai Tarantola a Sacconi, Maurizio Sacconi. Tutta l'inchiesta la trovate a pagina 3, poi a pagina 7. E poi vi segnalo, perché ieri Papa Francesco ha avuto due impegni, diciamo. Uno è stato appunto ricordare i 50 anni della prima messa in italiano, e l'altro festeggiare i 70 anni di comunione e liberazione. E allora, proprio scorrendo, guardando le prime pagine dei giornali, si vede come le notizie possono essere veramente lette e interpretate in modi diversi, e così anche a volte un po', non so se in buona o cattiva fede. In ogni caso, vi faccio questo confronto. Il Fatto Quotidiano titola: il Papa frusta CL autoreferenziale, il movimento ecclesiale di Don Giussani era stato protetto da Wojtyla Ratzinger, ora Francesco ammonisce i vertici e gli 80.000 fedeli che erano ieri in Vaticano. Chi si guarda allo specchio si trasforma in impresario di Hong. Mentre Libero, molto critico comunque verso l'atteggiamento di Papa Francesco, che ha appunto detto semplicemente: cerchiamo di non diventare autoreferenziali, ma l'ha detto in occasione, almeno questa è la mia interpretazione, l'ha detto in occasione di questo anniversario, ma era un monito che comunque vale sempre per tutti. Ecco, allora il commento invece di Antonio Socci, che è un esponente di CL su Libero: Papa Bergoglio demolisce i precetti sacri dei CLini. E a questo punto, se invece volete così una fotografia un pochino più obiettiva, semplicemente, di ciò che è stato detto e di quello che è successo ieri in Vaticano, a pagina 20 del Corriere della Sera, Gian Guido Vecchi fa la cronaca: l'invito del Papa agli eredi di Giuliani, no a etichette e autoreferenzialità. In Vaticano 80.000 fedeli per ricordare il fondatore di Comunione e Liberazione. Ma invece il pezzo di Antonio Socci è su Libero, sulla prima pagina di Libero, ma il titolo principale di Libero è dedicato al quantitative easing: arrivano 300 miliardi, ecco come guadagnarci. Alle pagine 2 e 3 trovate appunto le analisi di Ugo Bertone, Carlo Pelanda, Antonio Spampinato: il rendimento di BOT e PTP sarà vicino a zero, fondi, azioni e bond per fare ancora soldi, risparmi fino a 40 miliardi sui mutui, gode pure lo Stato 5 miliardi in meno di interessi. La prima pagina del giornale è dedicata ancora una volta, come spesso fa il giornale, in modo anche meritorio, se volete, all'analisi di quante tasse paghiamo, di quanto siamo tartassati come contribuenti onesti naturalmente. Il titolo: pure una tassa sulle tasse, sanguisughe di Stato, ogni impresa paga 7.500 euro l'anno per divincolarsi nella giungla fiscale. Naturalmente è un po' il riferimento al fatto che chiunque di noi, anche per paura di sbagliare, debba sempre rivolgersi a molti professionisti per capire quali siano le tasse da pagare. Sapete che Piero Stellino è passato dal Corriere della Sera al Giornale, i suoi editoriali escono alla domenica. Quello di oggi si dedica all'atteggiamento di Renzi verso la RAI. Sapete che una delle tante riforme sul tavolo del Premier è quella della RAI. La maleducazione del teleeducatore si intitola l'editoriale di Piero Stellino, ed è appunto dedicato al rapporto tra Renzi, la RAI e la possibile riforma della RAI. Il Manifesto ha una fotonotizia che è in realtà un dipinto di Henri Matisse, La danza, sapete, quello dove le donne si tengono per mano e danzano unite. È un dipinto che dal vivo, per vederlo dal vivo, bisogna andare a New York al MoMA, al Museum of Modern Art, e comunque è così l'illustrazione evocativa scelta dal Manifesto, con il titolo: Apriti cielo, per parlare della giornata della donna. A Istanbul uomini in piazza con la gonna, a Kabul con il burka, mentre dalle combattenti curde arriva l'invito a dedicare la giornata della donna alle loro lotte. Tra guerra e crisi, l'8 marzo coglie l'Italia in fondo al tunnel della disoccupazione europea. Al lavoro solo il 47% della popolazione femminile, che è appunto una delle percentuali più basse in Europa. Finiamo con la Gazzetta dello Sport. Ieri c'è stata l'anticipo tra Milan e Verona, che è finita 2-2, quindi la Gazzetta titola un'altra X su Inzaghi. E poi c'è la notizia del fatto che probabilmente è quasi fatto l'accordo per cedere il 30% del Milan a un finanziere thailandese per 250 milioni di euro. Ma veniamo un po' alle pagine interne. Io ho un mito personale che è Marilyn Monroe, e quindi vi segnalo questa pagina di Ranieri Polese, 25 del Corriere della Sera, dedicata a una mostra che ci sarà a Los Angeles, sulle proprio le ultimissime foto scattate a Marilyn Monroe prima che morisse nel 1962. Marilyn è l'eterna ultima foto. A Dallas, scusate, non a Los Angeles ma a Dallas, la più grande asta di immagini dell'attrice con inediti del luglio 1962 di questa icona senza tempo. Sono quattro le foto che il Corriere della Sera pubblica in anteprima, una più bella dell'altra. Vi segnalo poi, visto che abbiamo citato questa percentuale, 47% delle donne che non lavora in Italia, Danilo Taino, che sapete è il statistical editor del Corriere della Sera, pagina 39 ci racconta in percentuali la situazione delle donne in Italia. La parità di reddito, puntando in particolare appunto sulla parità di reddito, ancora da raggiungere, cose sapute ma utili da ricordare e mettere insieme oggi. Nel 2008 l'Italia era il paese con le differenze salariali di genere più basse dell'Unione Europea, subito dopo la Slovenia. 5 anni dopo, nel 2013, la situazione è un po' peggiorata, ma non tanto. In Italia gli uomini guadagnano il 7,3% più delle donne, quindi tutto sommato sì, c'è questo gender pay gap, ma non è poi così alta. Ci sono poi tanti altri numeri, e conclude Danilo Taino, viene da pensare che la quasi parità di reddito tra generi sia dovuta al fatto che una parte consistente delle donne che lavorano lo faccia nella parte bassa della scala dei redditi, dove le remunerazioni hanno differenziali minori. Vedete com'è importante leggere tra le statistiche, interpretare i numeri. Impressione confermata dal fatto che le donne manager sono solo il 28% del totale di queste posizioni, contro una media UE del 33%, che in Francia sale al 36%, in Gran Bretagna del 34% e in Germania del 29%. Resta molto lavoro a tempo pieno da fare anche questo 8 marzo. E poi vi segnalo un articolo pubblicato dalla Repubblica, pubblicato in realtà dal New York Times, che la Repubblica ha tradotto, ed è di Sheryl Sandberg, che sapete è il direttore operativo di Facebook, però è anche l'autrice e la fondatrice di questa organizzazione Leaning Org, che invita insomma tutti i manager uomini a capire: dall'ufficio al sesso la parità fa bene anche a voi. La manager numero uno di Facebook nel giorno della festa della donna interviene sull'uguaglianza di genere con una sorprendente verità. In famiglia come al lavoro, condividere porta al successo. Dal Sole 24 Ore vi segnalo a pagina 3 uno schema riassuntivo che ci spiega veramente con grande chiarezza che cos'è questo quantitative easing flessibile, perché è un po' diverso dal quantitative easing che è stato avviato negli anni scorsi in America. La BCE acquisterà titoli di ogni scadenza in modo graduale su base ampia, appunto una pagina intera con un articolo di Alessandro Merli e l'analisi di Alessandro Leipold. Sul Jobs Act un approfondimento invece a pagina 5, nuove assunzioni con doppio vantaggio, questo è l'approfondimento di Giampiero Falasca con uno schema che anche qui ci riassume i punti principali di questa riforma del lavoro. E poi l'Expo, perché ormai l'Expo è praticamente domani, cioè inizierà il 1° di maggio, però veramente il tempo stringe, e allora Sara Monaci, che segue da sempre l'Expo per il Sole 24 Ore, un rush finale di 54 giorni, Padiglione Italia è pronto al 70%, ma in realtà i paesi più avanti nel preparare i rispettivi padiglioni sono quelli emergenti. Molte foto anche, se trovate tutto a pagina 13 del Sole 24 Ore di oggi. Un'altra pagina un po' da mani sul volante, invece, come direbbe Alessandro Milan sul Messaggero, dedicata al dossier che è stato diffuso nei giorni scorsi, ma che appunto ci si può anche prendere un po' di tempo per analizzare in profondità e poi forse anche arrabbiarsi un po'. È il dossier sulla RAI, Sprechi, doppioni e flop. Ecco come spende la Rai. Insomma, in questi giorni erano proprio gli ultimissimi giorni per mettersi in regola. Il canone alla fine l'abbiamo pagato quasi tutti, perché noi italiani ci lamentiamo, ma poi le tasse nella maggior parte dei casi le paghiamo tutte fino all'ultimo euro, fino all'ultimo centesimo di euro. Ed ecco appunto tutto questo dossier sugli sprechi e poi anche un accenno a questo piano del direttore generale Gubitosi, che è un ambizioso piano di riforma per contenere i costi delle testate. Alcuni dati: per la messa in onda di un'edizione del TG1 le squadre sono composte da 19 persone, per coprire la fascia notturna dell'informazione vengono impiegati 7 pool completi. Rai News 24 ha in organico 254 persone, ma il sistema editoriale è inaffidabile. Tutte notizie messe nere su bianco in questo rapporto sulla Rai. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon 8 marzo. Ancora eravamo nelle pagine interne dei quotidiani. Dalla Stampa vi segnalo un'intervista di Alain Elkan a Zaha Hadid, il grande architetto di origine libanese che da molti anni vive ormai a Londra, è eclettica, anche qui a Milano ha disegnato alcune cose, però non disdegna nemmeno per esempio di disegnare alcuni negozi di abbigliamento, insomma veramente spazia, ma poi ha disegnato anche un importantissimo centro per la cura del cancro in Scozia, insomma progetti di tutti i tipi. E il titolo dell'intervista: la natura mi ispira, ma guai a ignorare la forza di gravità. Quindi anche un po' un invito ai giovani architetti a tenere i piedi per terra, a non fare progetti che sono magari bellissimi sulla carta, ma poi o troppo cari o troppo difficili o poco funzionali. Dalle pagine interne del giornale, nell'inserto Controcultura che viene pubblicata la domenica, un divertente articolo di Camillo Longone sul gastronomicamente scorretto, manifesto del libero cibo, come mangiare felici senza mode, leggi e guru. Il proibizionismo alimentare è una buffata di divieti e confonde il gusto con il giusto, a ciascuno la propria dieta, è un aspetto essenziale della nostra personalità. Poi un approfondimento anche qui un pochino da Mani sul Volante, invece tratto da Libero, sull'Alitalia, sull'eterna questione dell'Alitalia, perché è vero che adesso Alitalia è diventata in parte di proprietà di Etihad e forse verrà finalmente rilanciata, ma è anche vero che continueremo a pagare per i disastri degli scorsi anni e lo faremo noi normali contribuenti. E allora Sandro Iacometti fa un po' il punto. Il PD ci fa pagare i cassi integrati all'Italia, questo naturalmente il titolo è un po' un titolo di parte, ma il riferimento è al fatto che le responsabilità sono i due governi del PD, sostanzialmente del PD secondo l'interpretazione di Libero, cioè il governo Monti e poi quello Letta, che hanno alzato a 3 euro a biglietto il contributo per il fondo degli ex piloti e hostess, un tesoretto da 220 milioni che paga stipendi fino a 30.000 euro lordi al mese, e Renzi ha allungato il paracadute di 2 anni. Ma veniamo ai supplementi culturali, se no abbiamo sempre poco tempo per guardarli. E dalla Domenica della Repubblica vi segnalo un modo diverso un po' di guardare all'8 marzo: grandi chef, da Firenze a New York, le 10 donne con più stelle dietro i fornelli. Sapete che si scherza sempre dicendo che la cucina è il mestiere tra i mestieri domestici, quello che gli uomini hanno rubato più volentieri alle donne perché era il più divertente, e però si stanno facendo strada comunque, anche se la maggior parte degli chef e degli chef stellati in particolare restano uomini, si stanno facendo strada appunto le donne. La Repubblica ce ne racconta 10. Ma veniamo alla Domenica del Sole 24 Ore, anche se poi approfondirete durante Si può fare con Alessio Maurizio. E allora partiamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Violenza. La citazione è di Benedetto Croce: la violenza non è forza ma debolezza, né mai può essere creatrice di cosa alcuna ma soltanto distruggitrice. Forza e violenza, ragione e impulso, così si intitola il capitolo 6 del saggio La storia come pensiero e come azione di Benedetto Croce, da cui abbiamo tratto la citazione. Queste due coppie antitetiche hanno ingaggiato battaglia da sempre nella storia dell'umanità. A prima vista la forza e la violenza, con il loro fragore e terrore, sembrano dominare, a tal punto che il famoso storico inglese del Settecento Edward Gibbon riassumeva la secolare vicenda umana in una trilogia: delitti, follie, sventure. In realtà, come indica il filosofo napoletano, a prevalere in profondità è l'altra coppia, ragione e impulso, perché essa è creatrice, a differenza della violenza che produce solo il deserto e la morte. L'impegno della ragione è invece fecondo, a patto però che essa conservi la sua autenticità e umanità e non si cristallizzi in ideologia rigida, in sistema che ignora il cuore e l'amore. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche la rubrica di Roberto Napoletano, il nostro direttore, il nostro Sole 24 Ore di Radio 24. Continua il suo viaggio per l'Italia, è andato a presentare il suo libro Viaggio in Italia ad Ancona, la Confartigianato di Ancona, ha incontrato alcune persone, giovani e meno giovani, e così ci racconta appunto questa piccola città che secondo lui meriterebbe molto di più, come anche dal punto di vista delle infrastrutture, per esempio, come tanti altri luoghi italiani. Dalla Repubblica vi segnalo una bellissima intervista della serie Straparlando di Antonio Gnoli della domenica a Piero Gelli. Piero Gelli è stato veramente una delle figure più importanti un po' dietro le quinte dell'editoria italiana, è editor, critico letterario, critico musicale, per esempio ha curato il primo dizionario dell'opera italiana, ma è stato direttore editoriale di Garzanti per 20 anni, poi di Einaudi, poi è stato consulente della Valdini Castoldi, vice direttore generale di Rizzoli, insomma uno che di libri ne capisce davvero tanto e racconta tantissimi aneddoti. Vi leggo una delle ultime risposte che mi è piaciuta molto. Quanto ha pesato in lei la vanità? Abbastanza, ma non troppo. Sono stato per lungo tempo un partigiano delle cose futili. Cosa le piace e cosa rifiuta del suo carattere? Mi piace di aver scelto la mia strada da solo e di aver trovato in ogni situazione di lavoro e di carriera, anche la più rognosa, la capacità di divertirmi, di vedere anche il lato comico di ciò che accadeva. Di me detesto la trascuratezza, la vaghezza, l'incostanza. Negli altri tante cose. Il rumore, lo sporco, la musica dovunque. Nei colleghi, negli scrittori, nei giornalisti, nei politici, insomma nei cosiddetti intellettuali, la presunzione e l'ignoranza. Sono i nostri tempi più veloci e mediocri? L'ultima domanda di Gnoli. Più veloci senz'altro, vorrei dirle anche più mediocri se non avessi il sospetto della laudatio temporis acti, tipica di chissà di essere un sopravvivente. Dalla lettura del Corriere della Sera, la copertina è della fotografa Marzia Migliora, sapete che la copertina della lettura è sempre un'opera d'arte. E poi un articolo di Michele Salvati molto lungo che prende spunto da alcuni testi sulla Grecia e fa un po' una riflessione su questa grande crisi, perché abbiamo visto l'intervista di Yaroufakis al Corriere della Sera, appunto insomma la crisi è tutt'altro che risolta e forse bisogna anche guardare, riflettere per l'ennesima volta da dove ha avuto origine e da dove hanno origine queste crisi così profonde, economiche e culturali. Attenti alle lezioni del passato, la storia non si ripete. Domenica sempre della Repubblica la copertina, vi segnalo, abbiamo tempo ancora forse per questa, che è tutta dedicata al giovane Salinger, perché sapete lo scrittore americano, una delle figure più strane, più enigmatiche della letteratura americana, l'autore ovviamente del giovane Holden, che poi si è sostanzialmente nascosto per tutta la sua vita. Il grande scrittore americano aveva 20 anni quando firmò il suo racconto d'esordio, eccolo per la prima volta in Italia, quindi appunto un inedito. E poi sempre tra l'altro i disegni bellissimi di Gipi, sono 3 pagine del racconto appunto inframmezzate da questi disegni. Valentino Parlato che ci racconta, storico esponente del Partito Comunista, che ci racconta la sua Libia, che come l'ha vissuta, perché ebbe la fortuna, se vogliamo, di viverci insieme al nonno, e quindi ci sono anche delle foto storiche di suo nonno, di Valentino Parlato in braccio al nonno tra i soldati italiani durante la campagna libica. E poi vi segnalo per gli appassionati di Basquiat un bellissimo 2 pagine, anche in questo caso è un articolo che la Repubblica ha comprato da un quotidiano americano, tutto dedicato a Basquiat. Il commento è di Guido Andruetto sui taccuini di Basquiat, di questo grande artista di cui sapete si innamorò anche Andy Warhol. E poi il commento pubblicato grazie alla syndication con l'African and African American Research della Harvard University, non erano le solite stronzate, perché in questi taccuini ci sono i disegni naturalmente di Basquiat, ma anche i suoi appunti molto simili tutto sommato a poesia. Ultimissima segnalazione, una lunga intervista a Alejandro Iñárritu, fresco di Oscar, il regista messicano. Faccio film all'ultimo sangue, vinco perché non mollo mai, ma guai pensare che l'arte sia una gara. Intervista sul set canadese dove il regista messicano, fresco di statuetta, sta girando la sua prossima opera e dove svela retroscena e filosofia del suo cinema. Ultimissima segnalazione, grazie a Peter Bescafè in regia, una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.